io credo che sia spazio per alcuni dirigenti nel far spazio ad altri allenatori, ma non si perde, voglio dire, un allenatore come Ancelotti, come Spalletti, come Mancini, sono ancora giovani, insomma, sono ancora i migliori, sono ancora i migliori adesso. Ma io penso proprio di sì. Sarà da verificare Conte, magari, se all'estero avrà modo di misurarsi con realtà differenti, visto che comunque sulla prima panchina importante ha vinto subito. Però quei nomi che abbiamo fatto restano i migliori. Perché Conte è un allenatore che c'ha mentalità, c'ha cultura del lavoro, c'ha, pur essendo giovane come allenatore, però c'ha saggezza. È uno che sa cambiare, è uno che sa vivere le cose del campo, e poi non dimentichiamoci che uno che ha vinto nella Juve, vince nella Juve, non è così semplice, soprattutto dopo questo periodo lunghissimo, quindi gli va riconosciuto grandissimo merito. Credo che lui rivendica spesso il fatto che la sua Juve non era quella di Capello. A perfetta, anche io la penso esattamente come lui, è un'ottima squadra, però non è assolutamente quella dei due scudetti tolti, insomma, per qualità. Sì, un conto è vincere con Trezeguet e Del Piero, tornando al paragone blasfemo iniziale, un conto è farlo con Vucinic, Matri e Quagliarella, e adesso vedremo, ci riproverà con Tevez e Llorente. Grazie Serse Cosmi. Grazie a voi. E sul fatto di Jovetic c'era una cosa, era un'ipotesi che avevamo percorso nel corso di questa campagna, ma come sapete le difficoltà di rapporti si sono evidenziate. A questo punto riteniamo che, per quanto riguarda quell'assetto, siamo veramente a posto e siamo molto contenti di avere questi giocatori. Ma il calcio si sa, no? Tu che conosci un po' il calciomercato, quello che non succede oggi può succedere domani. Di sicuro oggi ho dato una risposta molto chiara, poi è evidente che da qui al 31 agosto può capitare di tutto, magari che la Fiorentina te lo dia a prestito gratuito. Marotta su Jovetic, che ho l'impressione non arriverà alla Juventus, o se arriverà alla Juventus sarà soltanto a prezzo di saldo e verso il finale di questo mercato. 800 24 00 24 per le vostre telefonate dopo la bella chiacchierata con Serse Cosmi. Cominciamo, Fabio da Milano, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. Niente, volevo parlare un po' di un argomento abbastanza spinoso che riguarda poi il conflitto di interessi abbastanza rilevante che abbiamo in Italia per quanto riguarda, oltre a casi molto più importanti, ma diciamo parliamo adesso di quello che riguarda la stampa sportiva e i media in generale. Sì, dica. Noi abbiamo praticamente chiaramente il Milan che attraverso Mediaset e tutti i canali televisivi, organi di stampa, poi abbiamo la Juventus attraverso la Fiat che controlla chiaramente RCS, Gazzetta dello Sport, quindi c'è la Corriere Sportivo, Corriere della sì, Sera. Sì, diciamo che ha un certo peso, ha un peso che sta crescendo. Prego Fabio. Esatto. E quindi poi vediamo un atteggiamento direi abbastanza sempre di piaggeria verso un tipo di squadre, mentre si permette sempre un certo tipo di interventi verso le altre e diciamo un'informazione completamente disequilibrata. Pochi sono i giornalisti che si sottraggono poi a questo stile, voglio dire, adesso li citiamo proprio sì, ma neanche così pochi, però Fabio, poi io ritengo sempre che ci sia la possibilità di scegliere, di cambiare. Sì, non tanto, lei prende i titoli, per esempio, diciamo i giornali sportivi ormai si legano soprattutto al bar, vediamo i titoli dei grandi giornali sportivi, sono sempre dei titoli, voglio dire, che mirano, come dire, ad accarezzare il pelo a un certo tipo di auditorio. Secondo me mirano a vendere, poi esatto. Si potrebbe fare un ragionamento più approfondito sulla necessità a volte di invece fare anche giornalismo di inchiesta anche nello sport, oppure di combattere delle battaglie per migliorarlo da dentro, e questo non sempre viene fatto, Fabio, però i giornali sono delle imprese come sono imprese tutte le altre che lavorano sul mercato, e quindi è abbastanza logico anche che abbiano un editore cui rispondere. Io ripeto, ritengo che poi sia il mercato a determinare le fortune o le sfortune di un'impresa singola, come può essere anche un giornale o una televisione a pagamento. C'è sempre la possibilità della scelta, se si ritiene che quello che viene venduto non sia adeguato. Grazie Fabio. Giuseppe dalla provincia di Messina, buon pomeriggio. E abbassi la radio per cortesia, prego. Sì, buongiorno. buon pomeriggio a lei. E senti, io volevo riallacciarmi al discorso della Juventus di Oriente e Tevez. Sì. Perché io sono convinto che quest'anno la Juventus acquisterà magari nel numero dei gol degli attaccanti, però forse potrebbe perdere qualcosa in equilibrio, specie se a questi aggiunge Vucinic e non Asamoah, che secondo me è quello che dà equilibrio. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Io penso che Conte non farà questo errore, penso che la Juventus sia non uno ma due o tre passi avanti in Italia rispetto alla concorrenza, e penso che Conte cambierà in qualche modo anche il modo di giocare della squadra, una squadra che l'anno scorso, non dimentichiamolo, ha avuto in Vidal il suo capocannoniere. L'anno prossimo non sarà così, l'anno prossimo la maggior parte dei gol se la divideranno Tevez e Lorente. È una squadra costruita più su misura dell'Europa, però credo che il divario rispetto all'Italia e alla concorrenza italiana resti, e anzi si sia accentuato. Tra l'altro è proprio di questa mattina la notizia che la Juventus è a un passo da Ogbonna, c'è stato un vertice non ancora definitivo con il Torino, però Juventus e Torino stanno davvero limando i dettagli di un accordo che porterà a Conte un'alternativa importante anche in difesa, e questo in un momento in cui il Milan è bloccato e non può ancora acquistare, il Napoli sta aspettando di sapere quale sarà il destino di Cavani, l'Inter sta aspettando di capire chi sarà il prossimo presidente, se la proprietà resterà Moratti o andrà in Indonesia. Anche queste sono passaggi che rendono più profondo il solco che c'è tra la Juventus e le altre. Tutti convocati. Ha scritto Nico al 349-238-6666: perché ci facciamo del male da soli? Io valuto il calcio italiano da osservatore e a mio parere negli ultimi anni abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno, e questo a commento delle parole di Serse Cosmi sulla superiorità del Brasile. E poi Daniele da Treviso: se c'è ospite Sacchi viva il calcio totale, se c'è ospite Cosmi viva la tradizione italiana. Non è questo, Daniele, stavamo parlando sulla scelta della Juventus di tornare a una coppia più classica d'attacco, e questo riporta un po' alla tradizione italiana, ma del resto anche Sacchi con il suo calcio totale giocava con davanti un centravanti, si chiamava Marco Van Basten. Si ragionava sulla moda del falso 9, sulla moda dell'attacco senza una prima punta di riferimento. Sulla Juventus, quella di Capello, tanto osannata, fece pochi punti più del Milan, che in Europa in quel periodo dominava, però sottoscrivo quello che ha detto Cosmi, era certamente una squadra con maggiore qualità rispetto alla Juventus che ha avuto in mano sin qui Antonio Conte. Vedremo l'anno prossimo con Tevez. Lorenzo da Livorno, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Volevo tornare un attimino sul problema Buffon, perché secondo me la Juventus sta sottovalutando il problema, perché Buffon non blocca più un pallone, ha preso gol da Neymar sul suo palo, ha preso gol da Cavani che era centrale, secondo me non è più un portiere affidabile. Che cosa ne pensa lei? Che è un portiere che ha commesso qualche errore, lo ha commesso nel corso della stagione, lo ha commesso certamente anche in questa Confederation, però prima di definire Buffon un problema per la Juventus o per la nazionale, ci penserei, e soprattutto se fossi nella Juventus farei esattamente quello che la Juventus ha fatto. La Juventus sta provando ad allevare un portiere per il futuro, si chiama Leali. Chi segue il calcio giovanile ritiene che insieme a Bardi sia il prospetto migliore italiano tra i portieri, però può ricavare almeno un paio di stagioni ancora ad altissimo livello da Gigi Buffon, e quindi legittimamente sta cercando di farlo. Credo che Buffon non vada rottamato, è un portiere che può dare ancora qualcosa alla Juventus e alla nazionale. Tra l'altro credo abbia nel mirino non soltanto il mondiale della prossima estate, stata in Brasile, ma addirittura anche l'europeo del 2016. Del resto non mi sembra che in questo momento le alternative in Italia ci siano, e anche l'avventura in Sudafrica del 2010, quando Buffon è stato tolto di mezzo da un infortunio, dimostrano che rimane ancora una garanzia, e per questo Prandelli continua a sceglierlo. Grazie comunque a Lorenzo da Livorno. Proviamo un attimino a cambiare sport, perché oggi è stata la giornata della presentazione di Luca Banchi, nuovo coach dell'Olimpia Milano, e allora sentiamo le sue prime parole da allenatore di Milano. Ma intanto è precoce parlare anche di punti di partenza. Certamente sui giocatori italiani c'è una progettualità che questo club ha dimostrato di avere già da qualche anno. E hai parlato di Melli e Gentile, hai parlato di due giocatori della nazionale, due giocatori che anche grazie all'esperienza di Eurolega avranno tutto il desiderio di potersi affermare ai massimi livelli. Ma non so, è difficile fare una graduatoria delle difficoltà, a suo modo lo sono entrambe. Per quanto riguarda Siena c'era il peso della successione, e soprattutto in un anno molto particolare dove oltre che l'allenatore cambiavano anche molti altri protagonisti in campo. Qua c'è la possibilità di avviare un nuovo discorso in un club molto ambizioso e in una piazza molto esigente, ma questo non mi spaventa. E questo era Luca Banchi, nuovo allenatore di Milano, la Milano del basket. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Paolo dalla provincia di Bologna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, innanzitutto grazie per avermi dato spazio. Prego. Io vorrei ritornare al discorso del calcio. E nulla, io noto sempre che anche prima ascoltando l'intervista di Sergio Cosmi si parla sempre di una nostalgia del calcio del passato. Però vedo che gli indizi sono per non fare nulla, per tornare a quello che eravamo prima, cioè uno sport più vero, e mi rivolgo alle notizie anche di questi ultimi tempi. Per esempio da ieri qua in città si parla di un passaggio del Bologna a un gruppo di imprenditori cinesi di Macao, e sembrerebbe che già oggi iniziano questa trattativa per far passare questa società, che è pur sempre una delle più gloriose della Serie A italiana, a un gruppo totalmente estero. Ugualmente la trattativa dell'Inter al gruppo indonesiano, la stessa Roma già passata a una proprietà USA. Volevo chiederle, secondo voi questo è una cosa positiva, o come per la maggior parte di noi che siamo già piuttosto vecchietti ci porterà a una totale perdita di valori in questo sport che pur sempre è molto amato? Mi sembra, Paolo, che i valori questo sport abbia cominciato a perderli anche prima dell'arrivo degli americani a Roma, o se avverrà degli indonesiani a Milano e dei cinesi a Bologna. Ho l'impressione che questo sia semplicemente un adeguarsi con i tempi, che vale nel calcio così come vale in tante altre attività, a partire dall'industria, da grandi gruppi che in Italia hanno ora delle proprietà straniere. È difficile contrastare questo tipo di cambiamento. Il modo migliore secondo me è cercare di capire in anticipo se si tratta semplicemente di speculazioni o se arrivano investitori che comunque hanno interesse a far crescere le società che rilevano. Da questo punto di vista, ad esempio, io ho ancora qualche dubbio su Toir, di cui si è secondo me scritto troppo poco per capire se farà davvero il bene dell'Inter. Grazie comunque. A proposito di stranieri e di proprietà che vengono da fuori, andiamo a Roma. Sorprenderei se questa Roma americana, che capisce che per il momento poco, in cui il brand forse supera l'idea della romanità di Roma complessivo, non decidesse di togliere anche gli inni, visto che non è che io non mi riconosco più in quella Roma, forse questo tipo di Roma non si riconosce più nel mio tipo di, nel modo di concepire il calcio, affettuoso, amabile come io lo concepito. Musica, ma soprattutto parole di Antonello Venditti. Buon pomeriggio Paolo Liguori. Buon pomeriggio a voi. Ma tolgono anche l'inno a Roma dopo aver cambiato il logo, davvero si è sfilacciato così il rapporto tra gli americani e la città? Io intanto saluto Antonello, dico perfettamente lo spirito delle sue parole, lo condivido, lo sento dentro anche io forse sono anche più anziano di Antonello. Ho 64 anni, faccio il tifo per la Roma da quando avevo 9 anni, ne ho viste di tutti i colori, perfino la colletta al Sistina, quella del Conte Marini Dettina, i vecchi come me lo ricordano, i vecchi tifosi. Devo dirvi che io non ho mai visto una Roma come questa scomparsa dal cuore dei tifosi. Io delle volte penso la Roma non c'è più, perché qua siamo in una situazione incredibile, una proprietà che dicevate prima delle proprietà straniere, nessuno sa abbastanza il fatto che Pallotta avrà certamente dei mezzi, ma di mestiere fa il gestore di fondi. I gestori di fondi gestiscono i soldi degli altri, non rischiano mai i soldi propri. E quindi lui sta facendo un rischio calcolato che ha come obiettivo lo stadio. Se ci arriva vivo, se ci fa arrivare vivo a noi allo stadio, perché l'appeal di questa squadra è poco. Ma soprattutto mi preoccupa, non è come gioca la squadra, sapete, tante volte si dice si vince, si perde, ma il declino velocissimo che ha preso la società in questi 2 anni. La società si è spappolata, è venuto Baldini, è andato via Baldini, e adesso al vertice compra e vende i mestieri, vuol dire che non si capisce nulla del calcio, vuol dire che siamo a un fatto peggio che commerciale. Tutto il resto è super sfilacciato, la parte tecnica veramente è stata mandata in rottamazione in questi 2 anni. Un allenatore almeno in grado di costruire qualcosa l'avevano preso, che era Zeman. Sento dire sì, però Zeman l'ha preso per contentare la piazza. Allora chi fa queste operazioni per contentare la piazza deve anche sapere che se poi la scontenta la piazza, per il modo con cui lo cazza via e con cui lo sostituisce con nessuno, poi diventa un boomerang, poi diventa un inferno, come piazza Tahir. Tu contenti la piazza, ma poi si può scontentare, diventa una valanga, a Roma soprattutto. Quindi c'è incoscienza, irresponsabilità, superficialità, personaggi perché non si capisce. C'era un amministratore delegato, una persona abbastanza stimabile, Fenucci, sparito, è stato sostituito da un altro amministratore delegato di fiducia della proprietà Zandi, di cui non so nulla. C'è un personaggio, l'avvocato Baldissoni, di cui io non so nulla. Sì, c'è una situazione, direttore, nell'ambiente della Roma da anni, e non conosco questa persona. È strano, perché conosco tutto e tutti, mi occupo per passione, non per mestiere, quindi ancora di più, perché quelli che si occupano per mestiere spesso non si occupano. Io me ne occupo per passione, quindi me ne occupo. Sì, c'è una situazione abbastanza complicata, così come complicata è la qualità di questo collegamento. Tutti convocati. Poi c'è chi come Luca scrive al 349-238-6666: ho visto il nuovo logo della Roma e non mi sembra che sia così diverso da quello precedente, ad alzare tutto questo polverone. Fatto sta che quella scelta ai tifosi della Roma, agli amanti della Roma, non è piaciuta. Abbiamo recuperato Paolo Liguori. Baldini se n'è andato, era l'unico colpevole di questa situazione? Ma non è il logo è una sciocchezza, anche l'inno di Venditti è una sciocchezza, il fatto che non c'è più la società AS Roma, cioè questo bisognerebbe capirlo, non esiste più, c'è assolutamente nessuno che abbia titolarità, responsabilità, che si assuma la sua parte in commedia. Lo ripeto, al vertice c'è uno che compra e vende giocatori, ma se devo dire il suo curriculum, mi ricordo che è stato condannato con proposta di radiazione perché aveva preso dei ragazzini africani e li teneva chiusi in una macchina ai tempi del Torino, poi fu salvato dallo Tito, poi fu mandato da Palermo, è venuto a Roma. Ma insomma, questa è la storia e il pedigree e il curriculum di Sabatini, senza diffamazione, tutti lo sanno, no? Tornando però a Pallotta, io credo che il messaggio Pallotta fa il gestore di fondi. Un gestore di fondi per definizione gestisce i soldi degli altri, non rischia mai i suoi. Infatti non comprano giocatori in Italia, perché in Italia bisogna fare le fideiussioni e le fideiussioni non te le fanno se non metti i soldi tuoi. Allora comprano solo giocatori all'estero. Questo è un problema grosso. Il fondo di Pallotta, che sicuramente è consistente, però è registrato nel Delaware. La gente che si occupa di finanza mi racconta che il Delaware in America è come le Cayman in Europa. Allora, signori, qualcuno si dovrà occupare di queste notizie, informazioni che io ho e che tutti dovrebbero avere. Io credo che il messaggio, la lezione, se si vuole provare poi ad allargare anche la visuale, ad esempio a quello che sta accadendo in queste settimane con l'Inter, con questa trattativa con Tohir che viene dall'Indonesia, è che poi è difficile, se non impossibile, al di là dei mezzi economici, guidare un club vicino al cuore della gente come può essere la Roma o l'Inter, stando a migliaia di chilometri di distanza. È vero, questo è verissimo, stando a migliaia di chilometri di distanza lo si può fare solo se al vertice di una squadra si mette, dandogli poteri assoluti, persone fidate, affidabili. Ma qui i dirigenti sono entrati e usciti dalle porte girevoli in una continuazione, è entrato Baldini, era Baldini la garanzia, poi è uscito Baldini, Fenucci è entrato, adesso Fenucci non conta, ce ne sono altri sconosciuti, dicevo prima l'avvocato Baldissoni, chi lo sa quando mai si è occupato della Roma, che ne saprà di calcio? Beh, questo avvocato nel corso dell'amministrazione ha arrivato la responsabile dell'ufficio stampa e l'ha sostituita, credo, con una persona vicina, molto vicina. Non sono piccole cose, queste sono grandi cose che cambiano le società in poco tempo. Grazie direttore Liguori. Grazie a voi. Grazie a Paolo Liguori. Fatto sta che a Roma c'è la fronda antipallotta che è sempre più numerosa. 800 24 00 24, Claudio dalla provincia di Chieti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io vi ringrazio di avermi richiamato, però avrei bisogno di 3 minuti. Facciamo uno e mezzo, prego, dai. Ok, allora restringo. Gli stadi in Italia sono sempre più vuoti, c'è sempre più delinquenza. Io parlo a differenza di Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna e Portogallo. Gli stadi in Italia sono sempre più vuoti, c'è sempre più delinquenza, c'è sempre più scorrettezza diretta da pochi, e che non sono i pochi, che sono la classe arbitrale in toto. Sì. C'è scorrettezza da parte dei presidenti di calcio, delle società di calcio. Certo, la Juve ha vinto lo scudetto meditatamente sul campo, Claudio, ma prego. Siamo riusciti a tornare indietro nel tempo e annullare un gol validissimo a Catania e via dicendo. Sì, però Claudio, io la prego di non tornare ad ottobre, perché facendo una battuta è andato tutto in prescrizione, la stagione è finita, e tra l'altro l'incidenza di quell'errore sull'esito del campionato mi sembra irrilevante. Mi interessa di più la parte di discorso che riguarda il disamore, il distacco rispetto al prodotto calcio. Aggiungo io all'elenco dei problemi che ha fatto lei che lo spettacolo è anche di bassa qualità e di basso livello rispetto a quello che si vede altrove nel resto d'Europa. Però è un momento così, 10 anni fa la Bundesliga era un campionato quasi fallito, oggi è il movimento che guida l'Europa. Se si fanno le scelte giuste, tra 10 anni non è detto che quel ruolo non possiamo tornare ad occuparlo noi. Andrea da Udine, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, e anche io mi ricollego al discorso dell'ascoltatore che ha chiamato in precedenza. Volevo dire che secondo me è già tanto se c'è uno come Pallotta che ha deciso di investire nel calcio italiano. Se si trova qualcun altro che ha dei soldi e vuole investire nella Roma, ben venga, ma adesso c'è lui e non penso ci siano altre alternative. No, di sicuro. Bisognerebbe preoccuparsi della violenza che spesso interessa le partite della Roma o della Lazio, forse questo non attira investitori e non attira la gente allo stadio, forse bisognerebbe pensare più a questo che al fatto che la gestione non è proprio così efficiente in questo momento, magari col tempo migliorerà. Sì, io credo che gli investitori in Italia non siano attirati non tanto dalla violenza degli stadi, che pure è evidentemente un brutto biglietto da visita per chi ci guarda da fuori, non siano attirati da una situazione che in questo momento non consente al calcio italiano di essere ancora un affare. Cito la legge sugli stadi, non è però l'unico esempio, però è anche vero che il nostro è un movimento che da questo punto di vista ha dei margini di crescita. Ha dei margini di crescita importanti proprio perché ha toccato il fondo o quasi, e quindi è destinato nei prossimi anni ad avere la possibilità di crescere, e penso proprio per questo in questa fase cominci ad avvicinarsi qualche investitore da fuori anche alle società italiane, anche a un club di prima fascia come l'Inter. Vincenzo da Roma, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio, ciao, se ti ricordi ci siamo sentiti per Totti, ci hanno mandato anche delle foto. Sì, continuo ad aspettare una telefonata, dai, prego. Sì, io ho lavorato con Sabatini per molti anni, perché gestivamo le squadre di Gaucci, e mi dispiace sentire quello che ha detto il direttore di cuore, che stimolo ovviamente, ma Sabatini è un ottimo conoscitore di calcio, noi abbiamo preso giocatori importantissimi, emergenti per tutte le squadre di Gaucci, insomma. Il problema della Roma è un'altra cosa, che Pallotta, come tutti gli americani, io sono italo-statunitense, cerca un ritorno dal calcio, un ritorno che non avrà mai qui in Italia. Ecco qual è il problema della Roma. La Roma va presa non come un investimento per guadagnarci, ma un investimento a fondo perduto. Sì, come quasi tutte le società italiane. Come tutte le società di calcio. Cioè, purtroppo in questo momento. Noi stiamo vivendo un periodo particolare, non solo in Italia, ma in tutte le altre parti, che siamo costretti a ricorrere ai fondi degli Emirati Arabi e degli indonesiani, perché non ce la facciamo più. Quindi il Pallotta non è venuto in Italia per spendere, ma per cercava nella sua idea col merchandising, con col caso, di fare dei ricavi, cosa che non è possibile. Baldini è una persona splendida, anche lui lo conosco da anni, siamo nella lisa assieme, eccetera, eccetera, e non si discute. Il problema è l'incompetenza degli altri, cioè quello che cosa Pallotta vuole da Roma. Sì, però Vincenzo, la seguo sul filo del suo ragionamento, è anche vero che poter ottenere un ritorno da una società di calcio come da qualunque società prevede che all'inizio ci siano degli investimenti. Da questo punto di vista l'avventura di Pallotta a Roma è molto diversa dall'avventura di altri grandi gruppi, di altri magnati stranieri che sono entrati ad esempio in Inghilterra, penso alla parabola di Abramovic, sì, al Chelsea, esatto, o degli sceicchi al Manchester City, che da un paio di anni non spende più, ma da un paio di anni, dopo aver investito, è molto. È quello che ti sto dicendo io. Il Pallotta non è l'Abramovic o il patron del Paris Saint-Germain o chi vuole rilevare l'Inter, è tutto un altro tipo di persona. Pallotta non ha capitali per È un gestore di fondi, come diceva Paolo Liguori, poi sul resto Paolo Liguori ovviamente si assume la responsabilità di quello che ha detto. Grazie Vincenzo. Massimo da Brindisi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio. No, io chiamavo a proposito delle acquisizioni da parte di investitori stranieri di società di calcio italiane. Sì. Sono un tifoso interista da sempre, praticamente, e sono sinceramente preoccupato nel caso dovesse essere acquisita veramente da questo magnate italiano. Sì, da Toir. Sono preoccupato perché secondo me non lo conosciamo, è lontano completamente dalla nostra cultura, mi immagino che l'Inter rimanga agli interisti, cioè io sono affezionato alla famiglia Moratti, da quando ero piccolo c'era il papà, mi piacerebbe che continuasse, sì, magari vincendo anche di meno, perché alla fine non è importante arrivare in Champions League per forza, è importante invece avere un'identità. Però Massimo, io sottoscrivo anche quello che lei dice, però è una visione romantica, il mondo va da un'altra parte. Poi non è vero che non è importante vincere, perché vincere porta anche la possibilità di tenere le società a certi livelli. Abbiamo finito, un saluto e un ringraziamento a Franco Piantanida, autore di questa puntata, a Roby Scaltritti in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano e l'appuntamento domani alle 14. Out. Com'era? Franchi, dai! Si è toccato il coso, il touch the white one! Sì, il touch the white one, è così, non te ne... Come cazzo fai, madonna, oh madonna! Sì, c'è dietro!